Linee d'ombra di Matteo Caccia. L'impressione non era di una grandissima diga, era molto alta rispetto al livello del Piave, sembrava proprio un monolite messo lì così. Venerdì 4 ottobre 1963, 6 giorni prima del disastro, rientro in sede in attesa di tornare a Longarone con il nuovo trasformatore. Storia di un uomo che ha sfiorato il disastro del Vajont e di un altro che non è salito sull'aereo di Ustica, in una puntata che si intitola Non era destino. Dove siamo noi, oltre la diga, un silenzio feroce. L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là. Su un piano inclinato, non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma! E poi va. Cos'è che la fa andare? Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di rocce. Non è mica questa roba qui. Quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vajont. Ne avete riconosciuto la voce? Se non è così, siete fortunati, perché potete ancora vederlo questo spettacolo, potete vederlo online ovviamente. È la voce di Marco Paolini che racconta quella strage incredibile e veramente inspiegabile, anche se poi è stato spiegato molto bene quello che è successo, che è lo spettacolo che racconta appunto la strage del Vajont. Marco Paolini a un certo punto fece questo spettacolo più o meno 20 anni fa ormai, direi, se non di più, andò in televisione e tutta l'Italia scoprì quello che era successo. Io lo scoprì in questo modo, lo scoprì guardando quello spettacolo quella sera sulla 7, se non ricordo male. Scoprì che nell'ottobre del 1963 scoprì che era accaduto, che un pezzo di montagna era crollato in un bacino artificiale che era chiuso da una diga, che era appunto la diga del Vajont. La diga incredibilmente era ed è rimasta in piedi, è la tuttora, però l'onda creata da un'enorme montagna che finisce in un lago di fatto era fuoriuscita ed era aveva corso lungo la valle, aveva letteralmente distrutto alcuni paesi, in particolar modo Longarone era stato devastato ed erano morte tutte le persone che si trovavano in quel luogo. Abbiamo aperto con questa storia, con questa citazione, perché la prima storia che vi raccontiamo oggi parla proprio di questo episodio, parla di un uomo che si trovava là, o meglio, si trovava là fino a pochissimi giorni prima. E quando si trovava poi a casa sua una mattina scopre la notizia e quindi avremo direttamente da lui il racconto, anche poi a voce, di quello che ricorda. Ma l'abbiamo messa oggi questa puntata, sembra facciamo le cose per caso qui in redazione, invece non proprio, perché oggi ricorre un anniversario di un'altra strage. Oggi sono 40 anni esatti dal giorno in cui un aereo che è decollato dall'aeroporto di Bologna ed era diretto a Palermo non c'è mai arrivato. Era il 27 giugno del 1980 e sopra il braccio di mare che è compreso tra le isole di Ponza e di Ustica, appunto, il volo Itavia finisce in mare, muoiono 81 persone, 77 passeggeri e 4 di equipaggio, ed è la strage di Ustica, quella che è conosciuta come la strage di Ustica. Io qualche giorno fa mi trovavo in Sicilia per un altro lavoro e con la persona con cui mi trovavo, che mi portava in giro per i terreni e i territori della Sicilia occidentale, mi trovavo a Marsala e lui mi indicò in un punto che si vedeva dall'alto, mi indicò questo radar, che era il radar dell'aeroporto di Trapani, che lui mi disse contiene i segreti di quella notte, perché quello che è successo, che poi si è scoperto, c'era una guerra nei cieli sopra Ustica in atto in quella notte di 40 anni fa, sono stati segretati lì in quel radar. Insomma, quel radar sapeva che cosa era successo, semplicemente è passato moltissimo tempo prima che venisse raccontato. Sono 40 anni esatti e quindi ve li raccontiamo oggi in una puntata che ha un titolo ben preciso che non era destino per diversi motivi, perché quella storia la racconteremo invece dal punto di vista di un uomo che doveva essere su quell'aereo, sull'Italia, e sull'Italia non c'è mai salito per dei motivi che sono più che altro legati alla fortuna e al caso. Quella invece è una storia che arriva dall'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che come sempre ci regala parte dei suoi diari. E quindi siamo qui, voi mettetevi comodi, noi cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Tutti conoscono la grande tragedia del Vajont, ma solo mia moglie è a conoscenza dello scampato pericolo al quale sono corso. Eravamo nell'anno 1963, avevo 28 anni, ero dipendente della Compagnia Generale di Elettricità nello stabilimento di Milano e lavoravo come tecnico elettronico nella sala prove apparecchiature elettroniche per applicazioni industriali. Eravamo agli albori dell'elettronica industriale e la CGE ne era la capostipite. Tutte le macchine e processi nei vari settori industriali venivano via via aggiornati con queste apparecchiature all'avanguardia. Il mio compito, oltre al collaudo in fabbrica, era anche quello di mettere in servizio le apparecchiature abbinate ai sistemi industriali, comprese le centrali elettriche di terra e delle navi in costruzione. Il nostro lavoro, io lo sapevo, non era certo esente da rischi. Una volta mi era accaduto questo avvenimento, ero a Castellammare di Stabia, a bordo di una fregata della Marina Militare, che aveva chiamato per una avaria di un regolatore della centrale di bordo. Stavo lavorando in un corridoio strettissimo e, girandomi, ho inserito il gomito del braccio tra due barre in tensione a 440 volt. La scarica mi ha oltrepassato il braccio in due punti e, a parte i due forellini di entrata e uscita, ne sono uscito praticamente senza traumi e ho proseguito il lavoro. Io praticamente ero uno dei collaudatori di queste apparecchiature e naturalmente, siccome erano quasi tutte apparecchiature in parte, non tutte, ma erano sperimentali, praticamente le messe in servizio venivano fatte da noi, per il semplice fatto che erano apparecchiature un po' particolari e un po' difficoltose da gestire. Avevamo avuto un ordine della Procond di Longarone, fabbrica di condensatori elettrolitici. Terminato il collaudo in sala prove e spedito e terminato il montaggio da parte del cliente, sono stato chiamato per la messa in servizio dell'impianto. Martedì 1 ottobre, allora gli spostamenti avvenivano in treno, arrivato alla stazione di Longarone, ho trovato ad aspettarmi il titolare della fabbrica, il dottor Protti. In auto, percorrendo la statale, siamo passati in corrispondenza della diga del Vajont, che si vedeva sul versante della montagna, al di là del Piave. Con sorpresa, il dottor Protti ha parcheggiato l'auto per farmi ammirare l'imponenza della diga, che mi descriveva come orgoglio della tecnica italiana. Il sole era già tramontato dietro i monti e nella semioscurità ho notato sul monte, a destra della diga, alcune luci intensissime e chiesi che cosa fossero. Protti mi disse che erano delle fotoelettriche che tenevano sotto controllo preoccupanti fessure che si erano formate sul monte Toc. Ripresa la strada, arrivammo alla fabbrica, la quale si trovava nella piana del Piave, vicino ad una grande segheria dei Protti. Visto l'impianto e depositato la mia strumentazione, il dottore mi ha accompagnato all'albergo prenotato, l'Hotel Posta. Il giorno dopo, mercoledì 2 ottobre, iniziai la messa in servizio e giovedì le prove a carico della vasca elettrolitica. Trascorsero alcune ore e mi resi conto che il trasformatore di potenza che alimentava la vasca si portava ad una temperatura troppo elevata e non accettabile. Dopo un consulto telefonico col mio ufficio, si decise di smontare il trasformatore e farlo rientrare in fabbrica per la soluzione del problema. Oh, Venerdì 4 ottobre rientro in sede in attesa di tornare a Longarone con il nuovo trasformatore. Quanto successo costituiva un'anomalia molto rara, in quanto la componentistica utilizzata era sempre sovradimensionata rispetto alle esigenze e la progettazione e il dimensionamento erano studiati da espertissimi ingegneri. Pertanto risultava piuttosto incomprensibile questo inconveniente, tenuto anche conto che durante il collaudo in sala prove venivano sempre simulati i carichi effettivi di funzionamento. Giovedì 10 ottobre alle 6:30 stavo facendomi la barba con la radio accesa quando sentii la notizia della tragedia avvenuta alle 22:39 della sera prima. Corsi in camera da letto, dove ancora mia moglie dormiva, e con voce strozzata le dissi che cosa era avvenuto. L'ondata uscita dalla diga aveva distrutto Longarone, compreso lo stabilimento e l'hotel posta, dove ero alloggiato il giorno prima. Sono rimasto incredulo quasi, nel senso che, caspita, no? Non era possibile che si verificasse un evento così tragico. E sono rimasto veramente quasi inebetito, perché non credevo alle mie orecchie, insomma. Notare che se il trasformatore andava bene, noi stavamo, almeno io stavo lì, per seguire la produzione sino a che la produzione era normale. Per cui è probabile che il giorno della disgrazia io fossi proprio all'hotel posta. Ad agosto dell'anno successivo alla tragedia, con la prima macchina che finalmente ho potuto permettermi, una Bianchina panoramica, con mia moglie abbiamo intrapreso il viaggio per Campolongo di Cadore, dove avevamo affittato un appartamento per le ferie. Il percorso prevedeva il passaggio nella zona del disastro e non vi dico la desolazione che ho visto a quasi un anno di distanza. Era stata ripristinata in qualche modo la strada, ma tutto intorno c'era un deserto. Delle fabbriche di Protti non ricordo, ma penso siano state distrutte completamente. Così pure dell'hotel posta, non restavano neanche le macerie. Unico mio desiderio sarebbe stato quello di avere notizie della famiglia del dottor Protti, ma non è stato possibile. Please forgive me. It's impossible to say. I appear unkind. It's impossible to know. But any fool can tell you it's all in your mind. Down in meadow, old lion stirs, puts his hand across his mouth, he has no use for La puntata di oggi, lo avrete capito, si intitola Non era destino e si intitola così soprattutto per la storia che ci ha mandato Antonio. Questa storia è una storia che appartiene davvero alla storia di questo paese, alla storia del nostro paese, che è quella della tragedia del Vajont. È una tragedia che era di fatto annunciata, perché tutti gli ingegneri che ci lavoravano, le persone diciamo di buon senso, dicevano: guardate che è molto pericoloso costruire una diga lì, perché la montagna rischia di venire giù. Insomma, la storia la potete vedere, ci hanno fatto un film, ci hanno fatto uno spettacolo bellissimo, quello di Marco Paolini, che abbiamo sentito in apertura di puntata. Noi siamo felicissimi di avere però una storia di una persona che era là, come avete sentito, fino a pochi giorni prima da quel disastro. Quella persona è Antonio. Pronto? Ciao Antonio, buongiorno. Ciao. Come stai? No, sto bene, sono in forma, grazie. So che tu, diciamo, al momento hai 85 anni. Esattamente. Che cosa hai fatto durante la tua vita, Antonio? Hai sempre fatto il tecnico? Avevo 14 anni quando sono stato alla scuola della Compagnia Generale di Elettricità. Dopodiché mi sono iscritto a Feltrinelli e ho cominciato a studiare da perito industriale. Avanti con gli studi, no, ho chiesto alla Compagnia Generale di farmi entrare in un laboratorio di elettronica, perché io studiavo elettrotecnica, che era un laboratorio di elettronica sperimentale. Infatti la CGE è stata la prima al mondo a iniziare, no, questa attività di elettronica industriale. Antonio, senti, per venire alla tua storia, all'episodio che ci hai raccontato, tu eri là una settimana prima praticamente che accadesse il disastro. C'era nell'aria la sensazione che stesse per succedere qualcosa, oppure era tutto tranquillo a tua memoria? Beh, diciamo che le persone con le quali io ero in contatto, compreso il titolare della fabbrica, no, che, alla quale dovevo mettere in servizio questa apparecchiatura, sì, sembravano più che tranquilli. Tant'è vero che quando ci siamo fermati davanti alla diga del Vajont, il titolare della fabbrica era entusiasta di questa, sì, di questa opera. Per cui io penso che nessuno si aspettava una tragedia così immediata, insomma, no? Però teniamo conto che proprio questa persona mi aveva spiegato che erano delle fotoelettriche che tenevano sotto controllo delle crepe piuttosto, diciamo, profonde. Ma Antonio, quando tu quella mattina in cui ti stai facendo la barba e senti la radio, e senti alla radio che quello che è successo, e vai da tua moglie e sei sconvolto, tu ti ricordi i tuoi pensieri, le tue sensazioni di quella mattina? Sì, è per forza, anche perché ci dovevo tornare, no? Certo. Senti, invece del dottor Protti non si sa più niente, ovviamente. Non ho saputo più niente di niente di questa faccenda, va bene? Io so solo che dopo che ho sentito per radio questa tragedia, va bene, non credevo le mie orecchie, perché era un'assurdità. Da lì in avanti poi, Antonio, tu hai avuto, diciamo, nella tua vita, sei tornato col pensiero al fatto di essere scampato a una tragedia così grande? Ma sempre, anche perché nella mia vita di lavoro io ho avuto diversi incidenti, diciamo, che hanno rasentato la tragedia, certo, va bene? Certo. E tutti questi incidenti io me li ricordo uno, in particolare questo qui non mi passerà mai dalla mente, perché era troppo una cosa strana, insomma, oltre che enorme, è anche strana perché non mi è mai capitato una roba del genere, anche dal punto di vista professionale. Certo, perché il fatto che il trasformatore non funzionasse Era assolutamente fuori dall'ordinario, giusto? Era fuori dall'ordinario, perché è come se l'Alfa Romeo mettesse un motore, diciamo, di scarsa potenza su una Giulietta, insomma, non ha senso. chiarissimo, la metafora è chiarissima. Antonio, io ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai raccontato e per le chiacchiere che abbiamo fatto, e complimenti per come tieni botta alla tua età. I tuoi 85 anni li porti benissimo. Sì, per fortuna, sì. No? Grazie Antonio. Va bene, ringrazio molto di tutto, se avete ancora bisogno sono a disposizione. Assolutamente. Ciao Antonio, a presto, grazie. Grazie mille. Cercano il tuo volto, cadendo 20.000 leghe sotto il mare Adriatico, cadendo dopo gli ultimi anni di scioperi senza nessun risultato, di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo attraversando. È solo un momento di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo superando. La luna sui sentieri, sui destini generali, i ragazzi che giocano a calcio nei penitenziari, le stelle sui viali, sulle offerte speciali, sulle ragazze che cantano nella notte verso i militari. Non era destino, si intitola la puntata di oggi di Linee d'Ombra. Raccontiamo delle storie di disastri, ufficialmente dei disastri che sono avvenuti in questo paese. Di quello che vi abbiamo raccontato c'è, cioè, della testimonianza diretta di un uomo che c'è stato a tanto così, e cioè l'avete sentita anche al telefono, la storia di Antonio. Si sa tutto, si sa quali sono stati gli errori, si sa quali sono state le cose che si sarebbero potute evitare per non far accadere quel disastro. Della prossima storia invece, quella che racconteremo poco dopo le borse in diretta, ancora ci sono dei misteri, ancora si sa veramente poco. Sto parlando della strage di Ust. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Linee d'Ombra. Carlo Fiocco era un operaio che ha saputo scandire la sua vita attraverso le macchine. Si è appassionato di meccanica da piccolo, ha fatto il contadino per un po', ma poi, dopo il militare, è entrato nell'industria meccanica e non c'è più uscito. Ha lavorato come meccanico manutentore in tutto il mondo. Ha vissuto tutta la sua vita professionale con la valigia sempre pronta. La sua storia ha rischiato di intrecciarsi con la storia di questo stesso paese in uno dei suoi giorni più oscuri. In questa puntata, che si intitola Non era destino, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il muso del Boeing 747 non era più di 20 metri dalla sala d'imbarco. Mancava ancora un'ora alla partenza del volo Amsterdam-Pechino quando informai il mio giovane collega che ci sarebbe stato un pesante ritardo. Alzò gli occhi dal giornale e si guardò intorno. «Hanno dato l'annuncio?» chiese. «Non ancora», dissi io. «E allora come lo sai?» Nella cabina di pilotaggio si vedevano 8 persone alle prese con chissà quale spia sul pannello di comando. Dopo un'ora dettero l'annuncio del ritardo. Dopo altre 2 ore alcuni passeggeri insorsero. Partimmo con 7 ore di ritardo cambiando aereo. Prima di imbarcarmi tentai più volte di comunicare con il mio collega in Cina, ma inutilmente. Il collega ci aspettava a Shanghai per volare insieme a Wuhan, a 800 km ad ovest della città. Dovevamo unire 2 grandi trasmissioni partite dal nostro stabilimento, divise a metà, presso un grande cantiere navale sul fiume Yang. Finalmente si volava. Dal tempo di volo dovevamo avere lasciato da poco la Germania, dunque eravamo sopra la Polonia, poi avremmo sorvolato l'interminabile territorio russo, la Mongolia e quindi la Cina. Pensavo all'entità del guasto che aveva impedito il decollo dell'altro aereo. Probabilmente un'insignificante spia luminosa oppure un falso allarme di qualche chiusura. Le norme aeronautiche sono molto severe e non consentono il decollo con la pur minima avaria rilevata. Immaginavo un atterraggio di fortuna sul deserto del Gobi nel nostro tragitto, dove in quella stagione i venti fortissimi provenienti dalla Siberia trasportano tempeste di neve granulare fitta come sabbia. Ma la mia immaginazione non ha nulla di reale. La mia esperienza in volo è molto positiva, possiamo parlare di oltre 1000 decolli in 43 anni, senza mai poter contare la pur minima emergenza. Devo dire però di essermi trovato nei paraggi di alcune tragedie e di esserne stato molto colpito. La sciagura aerea che più mi ha sfiorato è stata quella che più ha fatto discutere nella storia dell'aviazione civile italiana, quella destinata a impegnare le menti e scuotere le coscienze per oltre 30 anni, che ha fatto scrivere decine di migliaia di pagine e che ha lasciato sulla nostra giustizia la macchia di riuscire a provare una colpa, ma non di scoprire il colpevole. Sto parlando della strage di Ustica del 27 giugno del 1980. La società milanese per cui lavoravo al tempo aveva venduto numerose macchine da scavo nelle nostre 2 isole maggiori e mi recavo molto spesso presso gli acquirenti locali per dare supporto tecnico. L'aeroporto di partenza per Cagliari, Catania e Palermo era il Guglielmo Marconi di Bologna. Da Bologna si partiva nel tardo pomeriggio e in poco più di un'ora si era a destinazione. Io ero molto affezionato alla compagnia Itavia, era una piccola compagnia aerea che operava allora da una 15 d'anni, credo. La conoscevo molto prima di esserne cliente. A fine anni 60, infatti, quando facevo paracadutismo sportivo all'interno dell'aeroporto di Borgo Panigale, dovevamo sospendere qualsiasi attività 2 volte al giorno per la partenza e l'arrivo dell'Itavia, appunto. Pochi anni dopo cominciai a volare con questa compagnia. Nel frattempo, l'aeroporto bolognese era molto cresciuto. I miei voli erano diventati così frequenti da essere stato notato dall'equipaggio. Quanti voli fatti in cabina di pilotaggio in compagnia del comandante Gatti. In quei tempi, infatti, dopo il decollo, si poteva sentire l'annuncio che diceva «Da questo momento è consentito visitare la cabina di pilotaggio». Allora la pirateria aerea non era ancora di moda. Now is the climax to the Ai primi di giugno fui convocato a Milano dal mio capo. All'ordine del giorno c'erano proprio le mie visite in Sicilia. Il mio capo individuò la data di lunedì 30 giugno come inizio della missione, ma il collaboratore di Palermo ci disse di anticipare di un paio di giorni perché due importanti imprenditori lo richiedevano. L'appuntamento era per le 9 di sabato 28 giugno, presso l'agenzia di Palermo. La partenza sarebbe stata dunque venerdì 27 giugno, da Bologna, con il volo Itavia 870 delle ore 18. Come tutti sappiamo, quel 19 diretto a Palermo decollò dal Guglielmo Marconi di Bologna con 2 ore di ritardo, ma non arrivò mai a Palermo. Per un caso fortuito, però, io non fui tra le 81 vittime. Solo 2 giorni prima il capo mi aveva anticipato il viaggio in Sicilia di un giorno per un ulteriore impegno sopraggiunto con certi partner tedeschi. Sabato 28 giugno, alle 7 di mattina, ero seduto al tavolo per la colazione dell'albergo a Punta Raisi, in attesa del collega di Düsseldorf. Stavo aggiornando la mia agenda attascabile quando entrò il ragazzo dell'hotel con il giornale di Sicilia che titolava a tutta pagina «Disastro aereo sul cielo di Ustica». Lessi. Si trattava del volo Itavia 870 del 27 giugno, a cui era destinato il mio programma e che solo un caso fortuito mi aveva impedito di prendere. Nei giorni successivi si lesse di tutto, sulle responsabilità della compagnia, della scarsa manutenzione, ma sarà perché ero di parte, io non ho mai creduto a quello che leggevo. Io, che l'ho conosciuto, al lavoro, ancora oggi ricordo il comandante Gatti. Almeno per me, la sua memoria non è stata cancellata da anni di pretestuose ragioni di Stato. A poche settimane dalla tragedia, mi trovavo a Linate, in attesa del volo per Roma. I giornali non avevano ancora esaurito il loro carico di ipotesi calunniose. Ebbi un sussulto di tenerezza e di nostalgia quando mi fu consegnato il biglietto. L'aeromobile su cui stavo per salire era un'Itavia. E chissà dove sarai, amico, ripensandoti ti rivedo in me. La visione che avevi dell'amore, la tua ironia, e chissà dove sarai. Spesso da ragazzi passavamo insieme sere inutili, e fu in un giorno di festa per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine, e così oggi dalla mia memoria scelgo il meglio della vita e del suo veloce volo che finisce come sempre accade troppo presto. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile, per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vedo sulla mano la tua fine. Le parole che avete sentite sono quelle di Carlo Fiocco. Carlo Fiocco le ha scritte e le ha consegnate all'archivio dei diari di Pepe Santostefano, che le ha come sempre custodite con attenzione, le ha archiviate e ce ne fa dono quando noi abbiamo, diciamo, abbiamo una richiesta di questo tipo. Oggi abbiamo deciso di raccontare questa storia perché appunto oggi si sa qualcosa di più, anche se ahimè rimane un grande punto interrogativo riguardo alla strage dell'Itavia. Però ricadono 40 anni, sono passati 40 anni e questa appartiene a una di quelle, di quegli avvenimenti che ci fanno porre delle domande sul se sia possibile davvero in un paese civile e moderno, si immagina come il nostro, non avere risposte a 81 morti che sono rimasti in mezzo al mare. Ancora oggi si sa veramente pochissimo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale qui a Linea d'Ombra. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Linee d'ombra. La settimana scorsa, grazie a Mauro Pescio che ha cominciato a raccontarla, grazie all'archivio dei diari che ci ha instradato, ci ha dato a disposizione i diari di Antonina Azzotti, stiamo raccontando la sua storia. Antonina Azzotti era figlia di Nicolò Azzotti, che venne ucciso dalla mafia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, quando lei aveva 4 anni. La cosa sconvolgente che succede, sconvolgente per chi la vede da fuori, è che questa famiglia, che rimane priva di un padre, che viene ucciso dai mafiosi perché era un sindacalista che cercava di aiutare i contadini nella redistribuzione della terra. Sappiamo che l'aspetto feudale della terra è sempre stata per la mafia, è stato il punto di partenza. Sono quelli che, diciamo, erano il collegamento tra i signorotti, tra i padroni della terra e i contadini, quelli lì in mezzo, erano quelli che gestivano questa forma di potere, che sono poi diventati i cosiddetti capi mafia, quelli che gestivano i mandamenti e quindi i capomandamento. Ecco, da quella storia Antonina, quando ha 4 anni, rimane scioccata non solo per la morte del padre, ma perché lei e la famiglia sono marchiati da questa, da quello che è successo, e lei lo vive come una colpa, quasi, perché tutte le persone vicine, tutte le persone del paese dicono se se ne fosse stato zitto questa roba non sarebbe successa, e di conseguenza tutti loro sono visti sotto una cattiva luce, fino a che non succede quello che tutti ricordiamo in Italia. Non arrivano l'epoca delle stragi, i primi anni 90, il 92, il 93, quando nel 92 la cosiddetta guerra di mafia comincia con l'uccisione di Giovanni Falcone, di sua moglie e di tutta la sua scorta. Tutti quanti ricordiamo la strage di Capaci, ancora oggi, passando dalla strada che porta verso l'aeroporto di Punta Raisi. Oggi Falcone e Borsellino, si vede quella stele, quel monumento che ricorda proprio quella strage in cui saltarono letteralmente in aria tonnellate di strada, uccidendo appunto il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tutta la scorta. Ecco, io ho davanti a me un articolo di Repubblica di quel giorno, proprio del giugno del 92, 23 giugno del 92, in cui si annuncia che a un mese di distanza dalla morte di Giovanni Falcone ci sarà una grande manifestazione, una cosa che non è mai successa. Non c'è mai stata una mobilitazione così grande in Sicilia e nella città di Palermo contro Cosa Nostra. Qua l'articolo dice: i ragazzi del parroco di Santa Lucia portavano i cartelli della rivolta. Sicilia e mafia sono nemici, dicevano. Proprio a Don Paolo, all'indomani della strage, un gruppo di detenuti spedì una lettera che diceva: noi a Lucciardone non abbiamo brindato per l'assassinio di Giovanni Falcone. Si racconta di questi cortei che hanno attraversato la città, della solidarietà che arriva da tutti gli angoli. Insomma, è un avvenimento che tutti ricordiamo, le immagini di quella Palermo trasformata e piena di gente. Ed ecco la prossima pagina di diario di Antonina, il racconto che ha fatto a Mauro, riguardano proprio quella giornata, che per lei è stata una giornata dirimente. Da quel momento, da quando lei a un certo punto sale sul palco, viene chiamata a salire sul palco per raccontare la sua esperienza, la sua vita cambia. Antonina, che giorno era invece il 23 giugno del 1992? Era passato un mese dalla strage di Capaci? Che manifestazione era? Più che sì, c'era stata. A pochi giorni di distanza c'è stata la manifestazione dei 100.000 100.000 persone che venivano da Italia ad esprimere alla Sicilia, a Palermo in particolare, la loro solidarietà. E poi c'è stato anche il trigesimo, qualche giorno di distanza c'è stato anche il trigesimo. Il trigesimo, sono soltanto 30 giorni dalla strage, rappresenta per me una data, è una data unica sotto tantissimi aspetti, ma per di più rappresenta per me quell'occasione che mi dà la mano, perché io comincio a riscattarmi da questa vicenda e dal dolore. Quello che succede dopo la strage di Capaci non era successo in decenni e decenni di lotta alla mafia. La lotta alla mafia nasce da lontano, gli episodi più significativi si possono riassumere nei fasci siciliani, nel biennio rosso e nei fatti del secondo dopoguerra, quando perse la vita mio papà. Ma quello che accadde nel 92 è un cambiamento nella mia città, come non è avvenuto in decenni e decenni di storia, di mafia e di antimafia. Palermo era cambiata. Palermo aveva preso consapevolezza dell'esistenza del fenomeno, perché alcuni lo conoscevamo bene, altri meno, così molto passato, ma il più della popolazione era sonnolenta di fronte al fenomeno, non mi interessava, per cui dicevo, beh, si ammassano tra di loro, non ci interessa. La strage di Capaci invece è come se avesse risvegliato tutti da questo torpore. Nascono allora tanti comitati, il comitato dei lenzuoli, le donne del digiuno, e ci sono tantissime iniziative come le fiaccolate o le carovane. Io mi sentivo un po' una spettatrice perché dicevo, ma cosa sta succedendo? Io con il mio passato guardavo questo cambiamento ed ero molto interessata e anche speranzosa, perché mai avevo visto di queste cose. E quindi dicevo, ma cosa sta succedendo? Ma è vero o sto sognando? E invece non stavo sognando. Ogni giorno che passava vedevo sempre queste iniziative moltiplicarsi. I lenzuoli dai balconi erano sempre di più e le donne del digiuno riuscivano ad ottenere risultati fino a poco tempo prima impensabili presso i vertici della questura e della prefettura. Il giorno del trigesimo c'era una marea di gente, una marea formata da 5 catene umane che partono da punti diversi, attraversano tutta la città e si riuniscono. Siamo migliaia e migliaia a gridare alla mafia, diciamo basta. Palermo è nostra e non di Cosa Nostra. Tutti uniti, amici fra sconosciuti, tutti quanti sensibili e tra le lacrime, uniti da questa voglia di dire basta. Vedevo, ascoltavo, sentivo, diciamo, è vero, mi sembrava un sogno. A un certo punto dico a mio marito, guarda, anch'io devo andare, mi riferivo alla pedana, perché alla pedana si alternavano delle voci che manifestavano il loro sdegno, il loro dolore. Dico, guarda, anch'io ho qualcosa da dire. Zino mi dice, ma che dici? Ma cosa fai? Dove vai? E mi tirava per la maglietta. Io ho dato uno strattone, ero decisa. E così ho raggiunto la pedana. Mi tremano le gambe come mai mi è successo. Gli organizzatori mi vedono salire sul palco pronta per parlare al microfono davanti a tutti. Non ci conosciamo né sanno cosa voglia dire. Probabilmente mi vedono un po' agitata e mi dicono di non preoccuparmi. Poi una ragazza finisce di leggere una poesia al microfono e la persona accanto a me mi dice «Tocca a te, parla». Di giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Siamo due destini che si uniscono. continuiamo a ringraziare Antonina e continuiamo a ringraziare Mauro Pescio, che sta raccogliendo e sta raccontando la sua storia pezzo a pezzo. Siamo arrivati davvero alla vigilia di un momento fondamentale per lei, che vi racconteremo nell'episodio di domani, e cioè questa forma di liberazione che avviene attraverso le parole. Ce le ricordiamo quelle giornate, l'abbiamo vista alla televisione, io ero un ragazzino, ma sono rimaste impresse nella memoria quei fiumi di persone a Palermo e la moglie di quella vittima della scorta di Falcone, di Giovanni Falcone, che parla e piange e dice: io no, non li perdono. È stata una scossa che ha attraversato tutto questo paese, e adesso è arrivato il momento di parlare anche per lei, anche per Antonina, e lo scopriremo nella puntata di domani. Non mancate. Ora lasciamo la linea al GR. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma, che sono appunto Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni. Ora ascoltiamo appunto il GR e noi torniamo domani a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!